parecchie modulazioni che vengono dall'estero, è propagazione. E che vuoi che ti dico? Io non ci sono adesso, ho il computer, ma non può riflessi niente. Ma sai che non riesco più a entrare sui bei libri che guardavo prima, i bei classico. Ma cosa è successo? Cosa? Non ho capito cosa hai detto. Ho detto che non riesco più a entrare sulle bei classico. Ma come fai non sapere non entrare? Mi dà per dire elettricità, eccetera, eccetera. Non trovo la voce CB e radioamatori come la trovavo prima. Dai su, devi andare su, c'è scritto ebay.it. E se tu guardi c'è una specie di menu in orizzontale, però, e c'è scritto ebay.it. Ah, ho fatto un bruso. Ehi, io ce l'ho, ciao Luca, io ce l'ho già impostato eBay sul computer da quando l'ho comprato, capito? Tu clicchi lì e vai direttamente. Adesso non me lo dà più, vabbè, cercherò, perché lunedì bisogna guardare se c'è qualcosa di nuovo, eh. Avanti Luca. Questo di eBay, chiedi a Luca, che davvero lui vedi che non ne capisce niente. Diciamo, ho comprato, sono stato uno dei primi a comprare qua della frequenza. Io Tore, l'abbonamento Tore, l'hai comprato. Un bel Tore ho comprato bene Roma. Io ciao Luca comunque. Ho guardato da poco quanto ho speso in quest'anno, perché hai detto che ti fa il resoconto. Diciamo che ho esagerato. Hai esagerato? Ma in roba ci bisogno. Ho comprato anche roba per lavoro, ma ho speso davvero molto. Vabbè, ma quella del lavoro incrementa, ti fa lievita sempre di più. E dopo lo guardo esattamente, ma ho superato un paio di migliaia, se non anche di più. Aspetta, sto fischiando. Hola, hola. Luca, Luca. Mentre stavamo tutti mangiando si è sentito male, ha vomitato un bovaraccio, non ha mangiato più nessuno. Mai? Deve essere indisposto, ha mangiato la pizza, poi è uscito, forse ha preso freddo, cosa insomma. Stavo mangiando la pizza, ho uscito fuori, sai come sono i bambini che corrono, fanno, poi è entrato dentro e non stava bene, ha detto che va mal di pancia, ha cominciato a tossire, fino a quando è andata a luce. E avevamo la faccia in terra qua, non sapevamo da che parte girare. C'era un buon pretesto per non pagare il conto. Dovevi dire, ma la metta me l'ha nato, ma usciva tutti quanti senza pagare il conto. Ragazzi, sarà come quella barzelletta, la sai quella barzelletta schifosa? Cioè, sono parecchie schifose, dilla. Ah, praticamente questo ricrofilo, prima di sotterrare i morti, li apriva e si mangiava quello che avevano mangiato loro, e la metteva sul piatto e poi se la mangiava di sera. Un giorno praticamente vedo questo morto che aveva la pancia ben piena, ha preso, l'ha aperto e ci aveva la pasta asciutta, l'ha messa sul tavolo e praticamente arriva il figlio tutto affamato, quindi si mangia tutta la pasta asciutta e arriva il padre e fa la pasta asciutta del morto che ho messo qua sopra, dov'è? Il figlio, la gatta dolce, c'è Roma come la mangio ganga oggi. Me la raccontata quando facevo lezione di legale, la facevano alle 3 del pomeriggio con le proiezioni video, ne vedevi i ragazzini sentirsi male, per carità, bellina però. Non si è sentito nessuno. Cosa ti stavo dicendo? Ma tu lasci perché medicina? Ho fatto giurisprudenza ed è un esame che si dà sia in giurisprudenza che in medicina legale. Però poi ho fatto, adesso sto facendo la triennale di medicina, sì. Triennale? Praticamente è infermieristica. No, negativo. Si chiama scienze mediche. Il corso è tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, ufficiale sanitario, quelli che vengono a fare i controlli nei locali di mescita. Già lo so, ho capito. Vabbè, io diciamo che ho studiato anche un po' di medicina, di anatomia, ho studiato, perché avevo una ragazza che si stava laureando, adesso è dottoressa, si doveva laureare in medicina, quindi studiavo insieme a lui. Lo so, che me l'hai già raccontata questa cosa, che studiavate anatomia insieme. Tu non avessi sempre tua moglie che ti ha perso. No, mia moglie lo sa, la conosce e sa che per me è stato un grande amore. No, un grande amore non si scorda mai. Ui. Stavo dicendo, non si è sentito nessuno, non c'è dei soffocati in frequenza. Non so, c'è silenzio assoluto in questo periodo, capito? Non capisco perché, ma sono 2 o 3 giorni che non sento nessuno. Io accendo, se vedo che non c'è nessuno, ho altre cose, c'ho computer, c'ho televisore, c'ho tante altre cose. Se non presto insieme a loro è tutto tanto. E niente, non sento più nessuno. Da ieri ero con Tonino, ripeto, Tonino dopo pranzo e poi di sera non ho sentito nessuno. Non ho visto stasera Fabrizio perché sono andato a ritirarmi una specie di 2 riflettori d'antenna che ho comprato. A proposito, lo volevo sentire perché devo andare a pagarli. Mi sono ritrovato senza soldi e adesso devo passare verso quest'ora. Te ne potevi prendere una anche tu, quante antenne hai sul tetto? Una ne ho. Ma però guarda, c'era un prezzo talmente basso questo deviatore che ne vale la pena. Non l'ho preso, grazie a te. Ma è attivo Media Globe, non so che marca sia, però è una miseria troppo. Il commutatore d'antenna io non l'ho più preso da quello che ho preso, quello del 3G era difettoso, mi andava tutto in corto, via di fondo scala, gli andava, dello smitter, tutto era un casino con me. Poi l'ho aperto e sembrava nuovo, non c'aveva niente, controllatore a letti, tutto tanto, non dava. L'ho richiuso, l'ho preso e ce l'ho sbattuto da una parte, poi alla fine ce l'ho buttato perché tanto ho capito che era quello, perché mettono in diretta andavano bene, tutte le stazionali tranquille. Invece con quello lì mi mandava tutto in corto. Brava. Luca, la smetti di toccarti? Ha fatto solo con me. Ha fatto parecchie persone questo coso qua, quello della Zetegna. Sono non vale a niente. Ma non sei uscito, ti hanno messo la porta. Non ho capito cosa hai detto. Ma non sei uscito o ti hanno messo la portante? No, non sono uscito. La gara portante, se sono una delle radio più importanti di Sassari dintorni. Ormai domino Sassari. Senti? Fatemo? Sembra, ma lo è, senti, vai, cosa è stato quello a brigare? dicendo che è strano che non riesco a vederlo dai bimbi. Cioè vedo tutto il resto tranne che come si chiama? Che CB è. C'è qualche cosa di misto alle altre cose, però la pagina originale non la vedo. Devi schiacciare www.ebay.it. Infatti adesso faccio così, ma io ce l'ho già, ma io ce l'ho impostato il computer, io clicco lì e mi mando direttamente, capo? Di Ruggero, cara gara e cara Ruggero, stasera cosa è previsto? Cosa è previsto? Ma io volevo andarmene a pescare stasera veramente, però il tempo non me lo permette. Ma volevo andare a pescare perché ho due scatole di vermi nuove e nuove, nemmeno usate. Quelle non le voglio, io che andiamo al porto, dai. Porto? Basta, dai, andiamo a scusa. Non siamo scherzinte. No, c'ho i vermi, succede che ce l'ho l'esca, ma c'ho un bel vento, non fa. Sicuro, non mi sembrava ce ne fosse così tanto. Infatti là ero a Pociutorra a ritirarmi il coso, il permesso. Poi io sono, ma dove l'hai ritirato? Un attimo, non ho copiato. Capitano Iale. No, non il permesso di pesca. Il permesso, come si dice? Il permesso per me per piazzare alla festa dei santi. Tra poco c'è anche coso lì. Allora c'è la festa di San Gavino, tra poco. La festa di San Gavino è la festa dei santi, no? Infatti di meglio. Il Gavino proprio è gennaio. E vabbè, ma loro dicono San Gavino, non li cercavo nemmeno a proteggere gennaio, sono secondari. Tu vai in chiama la vecchia manna. Anni di chiamare la vecchia manna, ma la vecchia manna era i gandarieri. Sì, infatti. Cavalcata, ancora più manna la cavalcata. C'è una gaggata dove alla fine ci sono, è pieno di gente, di vetrine, di serrande pisciate il giorno dopo, quella è una vergogna. È una vergogna perché Sassari viene invasa, i sassariti se ne vanno al mare, giustamente, e ne succedono di tutti i colori. Lo so, mi sembra aggheggiare. Stai a raccontarci a te la giornata della cavalcata, cosa ho visto io. Guarda, rimane a bocca aperta. Rimane a bocca aperta. No, la cavalcata ce n'è di tutti i colori perché bevono, eccetera, eccetera. Guarda a vedere se c'è resta. Aspetta un attimo. Luca. Attenzione, Luca. Dimmi. Guarda un attimino, Fabri, se c'è vento. Come vento? Sì, se c'è vento fuori. Ehi, se ce n'è, perché? Che se no andavamo a cosa a pescare con gli anni doppio blu, ci venivi? Io domani ho una riunione importante di mattina al lavoro, devo andare alle 7 e poi devo fare anche la notte domani, immaginati un po', laggiù una gara. Ah? Ciao Fabri. Oh, ciao, mi non me l'ascolto, ho sentito chiamare e ho risposto. E beh, già tutto a posto. Diciamo di sì, Fabri. Se a dire che ci sono problemi iniziamo a piangere da oggi sino a fine mese. Lo so. A posto, no, ma meglio così che peggio. Io ci andiamo a prenderci un aperitivo. Ma io già voglio riuscire. Ho riparato un CD da discoteca, CD MP3 particolare, no? L'ho preso su internet e lui l'ha fatto, l'ho pagato. CD di quelli della discoteca, non ho capito esattamente, quali quelli che hai la possibilità di scresciare? Si attacca a quello, c'ha due doppio lettore, si mette in tre che non so se li hai mai visti, no? È un Denon particolare, comunque che legge MP3, legge una cosa particolare. Aspetta, l'ho messo in vendita perché non era funzionante, già lo sai cosa sto facendo, 10 euro la media, e non ha fatto nessuno offerta. L'hai beccato? Sì, 10 euro mi è arrivato, oppure l'ho aperto, quindi era un problema di alimentazione sicuro perché non accendevo, quindi ho detto vabbè, butto giù l'alimentazione e me l'attesto piano piano, già lo becco, male, sarà qualche cosa piatto come un alimentatore. E invece c'era praticamente, non mi arrivava corrente al primario, ma che una cosa che poi tu dico, non mi era mai capitata una cosa del genere, però voglio dire, una fesseria, un ponticello, era come una saldatura falsa. Gliel'ho scritto, ho detto guarda così così così, e te l'ha portato da due persone e tutti e due, tecnici hanno detto che se non era riparabile qualcosa del genere, capito? Immagina, non ha nemmeno guardato. Ho capito, ma così a fargli male, oltre che ci ha voluto buttare l'apparecchio, sapere per cui con 10 euro, cioè che l'ha venduto a 10 euro, si poteva riparare con poche cose. Ma sono niente, ci voleva, bastava solo rifare praticamente un ponticello, ha fatto una saldatura. Costa 449 euro, 449 dollari sulla spedizione. Ah, lei cosa ti ha detto? Niente mi ha detto, dopo che mi abbia detto, mi ha risposto che hai fatto proprio un bel affare, mi ha detto. Figliolo, così ha finito. E vabbè, cose che capitano. Infatti è cattivo, da cattivi il cazzo quello che hai fatto, almeno fa a parte di Gianni. Cazzo Gianni, proprio un bastardo dentro, no? Che se lo fa lo gribà. E cos'è? Non ho capito, c'è una console o cosa sia. No, lo chiama il Denon U4005 dual driver CD MP3, è un lettore che anche scrive, quando trasmetto non mi funziona il mouse del computer, cazzo che è wireless, praticamente è un doppio lettore, no, quelli che tu vedi in campi professionali, dai, messo dentro che legge MP3 e poi tramite quello fai, c'è cioè, una specie di console, come ha detto lui, per poter scresciare, fare, eccetera, eccetera. Ah, è una cosa in piccolo, però, di quelle compatte. No, è un pezzo professionale grosso, è una macchina grossa che va messa all'interno di un, come li chiamano, di un rack, all'interno del rack, no? Quella specie di mobili che mettono a incastro, hanno praticamente le dimensioni dimme proprio, sono tutte unificate. Sai che cosa significa scresciare già? Cosa? Scresciare, cosa significa? Come? Cosa significa già? Yes, è così, fa Giù. Tu mi credi a quel punto? Mica io ti ho trasmesso anche in radio, mi crudino. Che non l'ho trasmesso in radio. Allora. Keppa. E che radio ho trasmesso? Ho trasmesso in radio Paradigma, che trasmetteva la via Montegratta. Nel periodo almeno fai un 23 anni fa, un'auto costruita della Else Kit. Come si chiamava questa radio? Una radio che mi ero autocostruito con un kit della Else, non l'hai mai fatti quelli che vendeva a Fusaro. Ma anche tu come Alice, trasmette per la zona. Esatto, però vabbè, io ero un po' più discreto, dai, non superavo i due palazzi. Invece adesso ti sta la zona, prendeva le volte e lo sentivo anche a casa. Cioè che ancora adesso lo sentivo. Lo so. Ma se sai quant'è la multa, te ne basta la gana, oltre che c'è l'arresto, perché è una legge che non hanno mai aggiornato ed è obsoleta. Morale c'è per la legge Mammì, se non sbaglio. C'è una denuncia da paura. Io non l'ho mai fatto così. Io direttamente in radio proprio l'ho trasmesso. Lo sai perché era nata la legge Mammì? Per in breve difendere o tutelare la radio e la RAI, perché come avevano iniziato a proliferare queste radio private, alla RAI non ce la cagava più nessuno, la radio RAI. E Morale allora avevano tirato fuori questa legge, motivo per il quale avevano iniziato a castagnare tutte queste radio private. Sì, quante ce ne sono state, quante sono morte in queste radio, e quante sono rinate. Lui che ha avuto l'intelligenza di comprarci la frequenza, cioè di regolarizzarsi, ha fatto il botto poi rivendendosela, perché ce n'è più nemmeno che ha acquistato. fatto terreni edificabili prima della legge Suru, capito? Che ha costruito vicino alle coste prima della legge Suru e poi ha rivenduto a 100.000 volte più di quanto aveva comprato. E come le azioni Telecom quando sono uscite, che c'è stata gente che ha messo 5.000 euro e ha ricavato i soldi per farsi una casa. No, era Telecom, era Tiscali. Tiscali era, no, anche Telecom. Quelli di Tiscali avevano fatto il botto, avevano proprio quasi arrestato la borsa per eccesso di rialzo, capito? Vabbè, vabbè. Ma sai cosa avevano fatto solo? Una volta che avevano fatto la legge, questo del decreto salvacoste, poi tramite il fratello sembrava che avesse comprato tutta una serie di territori o di terreni costieri, perché si pensava che una volta che lui fosse andato via, chi veniva dopo di lui avrebbe cambiato la legge, e quindi ha comprato mezze coste a pochissimi soldi. Fatto sta che quando è caduto nessuno ha cambiato la legge e adesso c'è sul groppone tutti questi terreni che non servono a niente. Molto dura. No, se mai giocato è grosso. No, negativo, mai giocato. Io sì. Anch'io. Io che questo è un periodo, finché che andavo al lavoro, mica cazzo, non lavoravo più, mi stavo esaurendo, cazzo, compravo e vendevo durante il giorno, no? Se col telefonino, cazzo, non c'ero più al lavoro, mi cercavo, ma non vedi, sparito. Poi a Milano avevo lavorato in una di queste banche, una delle prime banche online, che era la Fineco, che trattavano anche pacchetti da quel punto di vista lì. No, quella banca avevo il conto titoli, no, e da lì te lo gestivi, compravi e vendevi tu come quanto vuoi, era una cosa impressionante. Bisogna essere coraggiosi, quando sta aumentando vendere, perché sennò se tu aspetti gli aumenti sempre di più, poi alla fine cadi. Vai a scoprire, facile da dirsi, difficile da farsi. Cosa facciamo giovani, cosa dovete fare? Io? Io niente, io sono sdraiato. Ascolta, quello che te lo dica, 20.000 euro come giovani. Non ho capito. Che giocando in borsa, 20.000 euro, me l'ho vinto. Mi fa piacere. Ma hai persi quanti? Hai mai persi. Ho giocato due volte mi è andata bene. E poi il direttore della banca mi ha detto, ragazzi miei, come fate? Io tanti anni che sono direttore qua, non ho mai azzardato, ho visto gente cadere in certe cose. Perché non li mettete in botte di questo e dell'altro? Perché non li amministrate diversamente? Adesso mi è andata bene, se poi mi va male, infatti la mia moglie ha detto, boh, basta. Compriamo la macchina, io. Di Roger, gara gara, vabbè, c'ha ragione anche lui, non è così semplice, è un po' come con le corse dei cavalli. E ora mi è andata bene, io avevo un amico che da quando avevamo 19 anni giocava in borsa, adesso c'è appartamenti, affittate, cose. Io ancora non sapevo che cosa era la borsa, lui già giocava, capito, già con la ragazza, però era il fatto che era stato estradato come si deve, perché lui lavorava a Banca Salvezia, la ragazza a Banca Popolare di Sassari, quindi è normale che ci aveva gli indirizzi giusti. No? È vero, è già è vero. Fabri, ci passo. No, tra l'altro io domani alle 6 sono in piedi più o meno. Rientro e domani notte alle 10 sto uscendo avanti di casa, vedi tu. No, era per salvarmi i debiti, se no non dormo stanotte. Ma tu, ma tanta zappata! Patanassina, soprattutto sono qua. Sono contata zappate. Ora piuttosto che c'è l'eco che sta facendo tana. Lo so sempre. Aspetta, vediamo un po', allora, ciao Fabrizio, quando cavolo è? Boh, adesso non mi ricordo, oggi è, lascia vedere, quindi prima non vedremo, oggi è 15, martedì, questa è la settimana scorsa, perché non mi interessa, lì, piazza Castello, vedi Fabrizio. Quando? da solo. Che ore? Sì, passati 6:30, ero. Sì, può essere, non me ne ricordo, io sono a memoria, però già sono passato anche da solo, provo a fare delle commissioni, forse sì, vabbè anche sì, Piazza Castello, può essere, dice sì. Ma te lo farai passare questo vizio di seguire gli altri o lui? Lo fai in capo di me, non visto, che non ho fatto una ragazza. E vai che sei uno sporcaccione, vai. E non mi ha fermato. No, che aspetta, un amico mio. Ho capito. Però adesso lo rimetto in vendita, con la foto che ha fatto lui stesso. Devi dire se sei interessato di. Ma sì, cioè il feedback te l'ha messo, sì. Il feedback positivo te l'ha lasciato. No, gliel'ho scritto, gli ho detto non mi lasciare nessun feedback perché non voglio che si veda, perché però devo rivendere, gli ho detto io la faccio, no? Che compro questa apparecchiatura, la metto a posto, e poi la rivendo. Però dagli 5 euro in più, gli avrei detto guarda, mi sembra ingiusto che te l'abbiamo comprato a 10 euro, facciamo 15, dai. Poi io credo che non è che nemmeno hanno molto, nel senso che non è che abbiano questo, non so che mercato possono avere, poi già ce l'hanno, assolutamente sì, già ci sono i gaggi che con un paio di centinaia di euro li spendono, No, ma non è questo, questa è roba proprio a mettere tipo in discoteca, roba del genere. Io sarei andato dai tecnici a cui l'ha dato e mi sarei inchiappettati delle parole buone e povere. Ma tu lo sai il difetto che faceva? Era una cosa incredibile, l'ho smontato, ho tirato giù la scheda di alimentazione, ho visto le tensioni che doveva dare in uscita, ho detto si iniziano a testare, come ho fatto, mi ho messo sul banco, ho attaccato per il piatto, adesso lo testiamo, l'ho alimentato, adesso lo facciamo andare. Andiamo a controllare dall'interruttore fino alla fine, no? Inizio, poi avrei detto l'interruttore, ok, dopo sono arrivato al sorpassato il trasformatore, c'era già l'interruzione. Ma la cosa strana, tu c'è una pista grande quanto un dito, era più o meno, no? Come grossetta, perché lì passa la corrente. Tu consideri a mettere quel puntale all'inizio della pista, lo mettevo alla fine, ma ti parlo di una pista che può essere grande quanto, lunga quanto un'unghia, no? Cosa ti posso dire? Un centimetro di pista nemmeno, no? Grossa, quindi è impossibile essere interrotta. Cioè, io mettevo il puntale dell'oscilloscopio all'inizio, dove c'era il ponticello all'inizio proprio poi lo mettevo alla fine dove c'era poi saldato, tu immaginate una pista con due furi, uno c'è saldato dove arriva e dall'altro c'è saldato l'altro pinino del trasformatore e uno dove arriva la corrente, quindi tutto uno proprio, è proprio tu mettevi il puntale all'inizio, lo mettevi a metà e c'era corrente, lo mettevi alla fine e non c'era corrente, non era interrotta, perché ha stato un piccolo ponticello lì, ma poi l'ho disaldato, l'ho tutto pulito, l'ho controllato, niente, non arrivava attenzione, una cosa stranissima. Comunque gli ho fatto il ponticello come era una pista a caso da qualche difetto, che cazzo messo, deve essere dove c'era, nata così un po', l'ho messo a posto, un gioiellino, quindi immaginati quanto ci ho messo a riparato, 5 minuti orologio. Gli dovevi dare una colata, senza bisogno di fare il ponte, una colata di stagno, evidentemente come era stato stampato il circuito, diciamo che in qualche punto si era ridotto di colpo la colata, aveva fatto un punto di che era indebolito, capito? Sicuramente sarà stato quello. No, lo volevo tutto pulire con calma, controllo, mi sta venendo la curiosità, aspetta, ma ragazzi mi dà tutti curiosità, interrotto, punto e basta, vai, metti, vai, fanculo, interrotto. Sì, se sto facendo interrotto, vaffanculo. Scusate. Avanti. Ma c'è tutto. Che cazzo, vatti al venti, vai. Ma c'è. Ciao. non faccio di radio. Ah, faccio del radio. Ma no, sono io, ma il segnale è sempre lo stesso, la radio è bassa, non mi sbaglio, Ronne. Sì, sta uscendo con una potenza, tanto abbassa che stai facendo di tutto. Che forse vedo il sasso sopra modulazione, bisogna, no? Che... Abbassa, tanto che stai facendo di tutto, abbassa. E finirà mai che faccio la radio normale. Arrivando a 3x2, stai arrivando, cosa hai fatto? Ah, ma è finita la cosa crepatura. E c'è una radio normale con la crepatura. Insomma, evidentemente a seconda di come muovi con l'antenna arrivi diversamente. Tu con la sigrecchia, io l'antenna la sposto, la faccio, ma è sempre fissa, non si è mai mossa. C'è 2 anni sempre lì. Sto arrivando, 9:10 radio 5. Ti abbaccia, e non ti abbaccia. Ui ui, riprendi Fabris. Riprendo io, ma anzi, meno male che c'ho la tastiera, ho visto il computer nuovo che ho preso, c'ho la tastierina tipo wireless che c'ho anche il mouse sulla tastiera, no? E con quella va bene, invece cacco, col mouse wireless cacco, un cazzo funziona, ma quando in palco, quando trasmetto, lo sai. Adesso dovresti fare un atto di forza, Fabri, licenziarti, così mi dici, ah, come i problemi di tante grandi, io mi licenzio così, e ti apri il laboratorio subito. Sì, cioè, ma per guadagnare quello che guadagno giù, forse quanti ne devo riparare, 24 ore su 24, non basta. E addirittura, vado a ripararne uno o due, ti fai quei 200-300 euro e superi, no? Forse è così semplice. Ma è sempre se uno non può fare se non c'è niente, ma se c'è già la forma, se c'è la... Cambio, è Gava Gava, Gianni doppio Ru. Ma non è tanto quanto riparare, prendere il giorno e cosa. Altro che andare a venire massaggi. Il problema è quello, quando arrivano le massaggi. Allora, scusate che mi sono staccato un attimino, che sto tenendo i contatti con la mano perché non ho preso il trasformatore da giù e sto utilizzando quello del computer, quello switching. Aspetta un attimo. Allora. Gianni. E io. Io sono entrato in un negozio di cinesi, tu dovevi vedere cosa tutto avevo, da Hong Da. Era pieno di esche finte, di tutti i colori, ne aveva, dai polpetti alle cerchiette, ai pesciolini, ai cazzi in piedi. Ehi, già li ho visti, se funziona. Se vanno bene. Ma a proposito di piccatori, ma Giuseppe non si è visto? Giuseppe, trovate, è venuto sabato con la pescata. Come è venuto con te sabato a pescare? È venuto con te sabato a pescare? È venuto... Marco, smettila! È venuto... come siamo andati insieme. Siamo andati. Ci dovevamo ritornare, ma c'è un po' tempo. Il famoso Giuseppe Sampi? Sì, agganciatore. Grande, mitico, Joseph, dove sei? Rispondi se sei in ascolto, Joseph. Cambio. Anthony. Se facciamo una serata in pizzeria, tu ci vieni? Dipende. Ma cosa dipende? Dipende, che mi prende. Dipende se mi prende? Guarda, è una serata aperta a tutti, uomini belli e uomini brutti. Gaffa, ma meglio sono il brutto. Ma sì? Il brutto. Ora bisogna trovare il cattivo adesso, perché il bello sono io. Vai. di Mattuvini. Sì, aiù. Cosa che stai facendo? Scommetto che stai andando di pedale adesso, di sinfonella. Mi hai ricordato che ce l'ho, adesso lo uso, sì, adesso lo uso, poi con la maschera chiuso il pedale, perché sto facendo, sto scrivendo. Zitto. Oh Gianni. Quale hai preso Fabrizio? Un MC, se gli ho dato un MC 60 che aveva qualche saldatura da rifare. L'ha fatto. Devi vedere come l'ha fatto. Ma tu vuoi? La Viroggia. Una cagata là, me l'ha mezzo rovinato quella. Posso credere. Quando l'ha visto non l'ha nemmeno riconosciuto, l'ha visto. Il tuo mi hai dato. La base di quello lì quanto mi è costato? Cioè il microfono più la base, 17 euro. E l'interno però non c'è. Negativo c'era. Aveva un po' di problemi perché secondo me quello lì è il classico microfono proprio lasciato in quintina, che era completamente ossidato. Però assolutamente funziona bene. L'ossidato? No, negativo, adesso è perfetto. Ci ha messo le mani il mitico. Oh, un attimo di bianco che mi devo ascoltare Crozza, Eccolo lì, hai capito? Grozza. Ehi, ma come se te mi sia più messato, Fabrizio? Devi ascoltare, Fabrizio. Tu sei amico, altro. Ma mi intende? Cos'è che hai detto tu? Ho detto, ma adesso a mezzo sbullonato, ma perché sono da, quelli che vendono ne ho preso, tutti e tre li ho presi da Bricoman. Il problema è che li vendono per, dicendoti che ha 2800 watt, poi realmente la potenza di picco quella, perché la potenza di esercizio è almeno 500-600 watt in meno, quindi se quando cosa attacchi dopo un po' inizia a vibrare troppo e si spazza, capito? Certo, mica da attaccare un po' lo deve fare, deve prendere un diesel per prendere. Guarda, i migliori sono quelli di Yamaha, però questa non ha... Scusate se non ho ascoltato, mi sono dormito. Ma un attimo, credo che abbiano fatto tutti i QS greca sul 20, quindi ci siamo iete cuore a cuore. E sul 20 so. Vabbè, dirò. E come mai? Non lo so. Non ci crederai mai, ma non voglio dirtelo. Ho visto una persona domenica che ti conosce. A me? Vabbè, gaba, ti dirò anche chi è, non domani però. Domani? Un domani. È una persona come maschio o femmina? Chi ho? E avanti. Un attimino che tengo, permettimi il baracchino, scusa un attimo. Elettrico, non credo ci siano problemi, visto che l'ho visto anche Massimiliano. Avanti. guarda, senti che addirittura Massimiliano mi ha anche sistemato il plug di dietro dell'alimentazione. È chiaro che si vede che le viti sono state toccate, no? Scacciavitato. C'ha qualche smeccatura, si vede nella mascherina grigia, però devo dire che con il riallineamento che mi ha fatto Massimiliano va bene, sono contento. E quindi per recuperarmi un po' di soldi, ecco che l'ho messo in vendita, però non l'ho messo all'asta, l'ho messo, mi sembra, su Subito e poi sul sito di Radio Amateur, mi sembra che sia. Sì, l'ho visto su Subito. Avanti Ittiri. Riga, no, questo preso, cosa consente? Perdona, ma ti sento un po' basso rispetto alla normale, come mai? La propagazione un po' così, no, non sto riuscendo sempre con il tuo livello di potenza e di segni di radio. No, sicuramente oggi c'è molta propagazione un po' così, dai. No, l'ultima volta che ci siamo sentiti purtroppo c'era qualcuno che stava rompendo le boccine. Mi fa piacere comunque risentirti e ascoltarti. Avanti Gianni. È positivo. No, ma sono entrato per salutarmi, peccato, poi devo uscire perché ora mi cammino verso il mare. Perché a quest'ora devo per forza camminare verso il mare, in quanto devo evitare di prendere, diciamo così, antaminici per questo accidente di allergia, quindi per evitare proprio medicinali, capito? Una boccata di iodio, a te ancora. Vabbè, perché allergico ai polli, no? Esattamente, proprio così, allergico ai polli. In questo periodo praticamente la climazione, poi produci saliva in più e problemi di prurito, diciamo così, alla gola, all'interno, così, e, insomma è una cosa fastidiosa, capito? Ci convivo, ma ogni tanto la temo facendomi delle passeggiate lungo mare, tutto lì. Ma adesso non ti conviene, perché sta iniziando a scendere un po' di polline dai pini, e c'è il platanone che ad esempio è ingiallita, sembra zafferano, capito? Quindi non so quanto sia sano pure per te. E se vuoi che ti dica, quando si allergico non si sa in realtà cosa sia allergico, io direi che fai le prove, perché oggi ci vai da una cosa, domani ci vai da un'altra, invece poi non è ancora più, poi addirittura c'è stato un periodo che sono andato, ho fatto una prova e non c'era più niente, ma dai, no, no. È un fattore fisico, dipende da una cosa anche congenita, mia sorella lo stesso, l'altra mia sorella lo stesso, mio padre aiuto, capito? Basta, quindi è inutile starti a girare, gli antistaminici non sono palliativo, antibiotici non ne parliamo, per cui mi difendo così, capito? In qualche modo, insomma, devo uscire, se no mi ammazza. Gianni, riprendi. No dai, resta l'ascolto di tardi. Ciao Gianni, mi hai sentito che a te dai. Beh, resta in ascolto, bro, che è troppo tardi già per me. Ciao ragazzi, vi saluto tutti cordialmente, rimango in ascolto. Ciao Gianni, buon QRX e buon QRT quando lo farai. Riprendi Salvatore un attimino che vado a prendere qualcosa dal frigo che c'ho un po' di fame. Cappa, eia. Tutti rum. Non rimanere solo in ascolto, dai. Due chiacchiere, giusto che è stata una settimana di inferno, devo parlare con qualcuno. Per te, per me no. Sapisci. Stamattina senza andare tanto lontano, sono andato a prendere la macchina. No, non metterò a molto. Ma tu che cavolo c'è? Tolgo la chiave e rimane il quadro acceso. E io ignoravo. Ho guardato, ho preso anche avvio. reattore per la batteria, niente da fare. E noi dovevamo cambiare tutto il blocco del volante, quello che ha il blocco a sterzo. Accidenti, non ho fatto lo stesso nella Peugeot, è rimasto tutto acceso, con tutte le si è messo addirittura a lampeggiare le quattro frecce a Sassola un mesetto e mezzo fa. E, dopodiché si è spento tutto quanto e ha ripreso a funzionare, però anch'io ho seri problemi elettrici. E infatti ogni volta che ascolto la radio, quando la spengo, rimetto il volume a zero, perché è capitato che un giorno sono andato a prendere la macchina in garage e sentivo la radio bella pompando ed era la radio che si era riaccesa da sola. Che bella, fantasmi dentro, fantasmi, che Ghostbuster. No, no, la mia non è questione di cose, la questione è non ha mai dato problemi, capito? Il fatto è quello, non ha mai dato problemi, me l'ha fatto di colpo. Ghostbuster, raga, boom, boom. Veramente, guarda, da ridere, tanto è vero che mi accorgo poi che, perché poi la uso raramente la macchina la familiare, diciamo, la utilizziamo per fare spostamenti oppure come in questa settimana che stavo andando avanti e indietro da Nuoro perché ho avuto problemi in famiglia e mi accorgo che qualche cosa è andato storto nottetempo quando riaccendendo aprendo la macchina leggo econometro inserito, cioè vuol dire che si è acceso qualche cosa per conto suo e poi è stato staccato dal sistema di stacco automatico per salvaguardare un minimo di carica nella batteria. Quindi una volta che leggo econometro inserito vuol dire che quella è ripartita come minimo la radio, ma poi non riesci neanche a spegnerla, capito? Proprio non riesci a spegnerla, dovresti staccare i cavetti della batteria. E quindi allora, per non sbagliare, che cosa faccio? Prendo, la metto il volume a zero, quindi almeno il riduco ai minimi termini il consumo. Però questo è da fantasmi, proprio da fantasmi. E tu mi sei stata batteria. Ma cavolo, ogni volta a mettermi a fare questo, poi si resetta tutto. Pensavo anche che fosse l'allarme, quindi anche ho staccato l'allarme. Non so che cosa sia successo, è successo dall'ultima volta che mi hanno fatto un tagliando qui a Sassari, alla Peugeot. Qualche cosa devono aver toccato, c'è poco da fare. Compaiono degli allarmi strani, liquido freni attenzione, liquido freni in esaurimento, ho livello freni troppo basso, mi hanno fatto cambiare i sensori del livello, 50.000 cose e niente, quindi hanno toccato dove non dovevano toccare e dovevano aver fatto danno, c'è poco da fare e quindi per il momento mi sto arrangiando in questa maniera. Sì, lì lo sai cos'è, lì loro praticamente hanno incasinato il programma resettandoti la spia di luglio, molto probabilmente. Non ho idea, però sono pasticcioni, guarda, dei gran pasticcioni. Sì, ma lì però, lì avrei chiesto, ma scusate, che il posto della macchina qui diventa una Ghostbuster, no? Sparata lì alla grande, capito? Ma stiamo scherzando. Cioè il pericolo, sai cos'è? Siccome c'è anche l'ABS collegato, magari non ti entra in funzione l'ABS quando serve, basta, capito? Che ne so, sta passando di giù un vulcano, non farci. Ma stai scherzando, no? Non farmi questo a Santa, che cammina in assistenza. Ma infatti ho intenzione appena, perché tanto dovrò ritornare a Nuoro, in qualche altra occasione, di fare un salto lì da Marletta, perché mi sono sempre trovato bene, hanno dei meccanici seri, mi voglio far fare una messa a punto completa da loro, perché almeno i parametri se vanno a valutarli, li valutano correttamente. Qua nel giro di un mese e mezzo, quando ho portato la macchina, era cambiato anche il personale dell'officina, e quindi ho voglia di dire che le cose ci avevano messo a mano loro. Per carità. Sì, ti sto dicendo che come toccano le macchine, specialmente della parte software, fanno un casino nero. Stanno lì a resettare le spiedure, perché moltissime automobili, specialmente dell'ultima generazione, cosa fanno? Praticamente hai, che ne so, 20.000, 25.000 km prescritti per il tagliando, si accende la spia e iniziano a suonare certe, la Volkswagen in particolare, e quindi devi portarla per forza in officina, devono fare il cambio dell'olio e tutto il tagliando, e poi il reset. Molte volte quando si fa il reset, a seconda di come cancelli, di come la pompa riceve l'impulso, si variano dei parametri e creano dei problemi, e io questo lo so, anche perché scrivo da sempre, quindi so di che cosa si tratta, almeno il linguaggio macchina lo conosco abbastanza bene. Però il problema non sarebbe quello, è la mappatura della centralina che vanno a toccare, oltretutto, perché poi sfasa i parametri benzina-aria, sfasa i parametri di controllo dei sensori, e quindi ci vorrebbe una rimappatura generale per quanto riguarda l'alimentazione dell'auto, per quanto riguarda i vari controlli dei sensori, ABS, VD, se ce n'è, e il sensore di pressione dell'airbag, perché qualcuno gli si è aperto e gli ha spaccato la faccia. Gesù, che pasticcio. Ma arrivano addirittura del programma, cioè mi stai dicendo che addirittura hanno in pratica corrotto le righe di istruzione della mappatura stessa dentro la centralina. Allora, il software basta niente per corromperlo. È corrotto il software lì, è chiaro che è corrotto, se da tutti quei segni. Il problema più grosso è che le parti più delicate, come ad esempio l'airbag, dal sensore, se riceve appena appena un impulso d'urto, che secondo lui è così, ti arriva un pugno in faccia. Lì si apre l'airbag e ti fa la faccia come un gattonato, sicuro, capito? Non ci scherzate in quelle cose, non è questione solo della radio, vedi che fa puttanate quella centralina, per quel motivo hanno corrotto il software, punto e basta. Lì hanno fatto qualche errore inserendo nel, siccome hanno l'interfaccia, no? Per il reset e per vedere i vari errori della centralina, probabilmente sono entrati dentro al software, o hanno chiuso male i parametri e poi la chiusura è successo, che fatta una virgola lì o niente. E il linguaggio macchina non interpreta come la vedono loro, interpreta in un altro modo. Chiudono e si crea un punto a lei, tutto quel paese, capite? Quello lì sta sempre lì che gira, che gira, che gira. Come può essere difettoso il CPU o le PROM, che ormai ha qualche problema grosso? Basterebbe di sostituire le PROM della centralina e tutto passa, riprogramma. E probabilmente hanno fatto qualche casino, perché altrimenti la macchina così non la deve fare, manco scherzando. E non ti fidare, mi ti dico di più, non ti fidare più di tanto, perché l'esercizio software è pari a quello dell'hardware. Praticamente se il sensore di controllo dell'airbag dà un segnale che non è corretto, ti arriva 300 un pugno in faccia, ti vedi l'airbag aprirsi. Accidenti, già, io programmo e sviluppo, ma non avevo mai visto sotto questi termini, cioè non avevo mai ipotizzato una cosa del genere. Ragazzi, visto sotto questo punto di vista, non fa una grinza a quello che hai detto. Hai ragione, perché d'altronde loro si collegano con un'altra macchina, con il loro sistema di monitoraggio, si agganciano all'hardware della macchina, e in sostanza è vero, succede questo. E se abusano, è possibile che succeda quello che hai detto tu. Sì, non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista, devo dirti la verità. Guarda, ti dico una cosa, io sono già un bel po' di anni che programmo in assembly in C++, compilo i vari programmi perché faccio anche display per macchine industriali, non sai, per comandi remoti, oppure tipi di frequenzimetri, per velocità, per vedere la velocità di periodimetro in un macchinario, un bicometro digitale, eccetera, eccetera. Proprio pochi giorni fa, guarda, mi è capitato di buttare via due o tre pic, ma con un'insistenza, il testardo praticamente sono stato io, chiudevo male il programma, io chiudevo male, cosa lo so, vuol dire che chiudevo male il programma, apparivano semplicemente dei simboli che non c'entravano nulla con la lettura reale, non c'entravano niente, sai, si manifestano sotto forma di quadratini, rettangolini, tu invece lo vedi sotto forma di allarmi falsi, perché va a farti vedere quello che non c'è, e così le istruzioni sono tutte sbagliate da parte del software. Ecco che allora, siccome in questo caso il driver è il software, perché è lui che pilota tutto l'hardware, in questo caso cosa succede? Gli dice accendi, ti spia, che c'è un sensore che ha rilevato questo, oppure guarda che l'olio si è abbassato, oppure guarda che devi aprire l'airbag perché ci siamo sbattuti. Ecco, basta tutto lì, è pericolo, è tuo, io ti sto avvisando, poi vedi tu. Perché quello che non ti è successo sinora ti potrebbe succedere domani mattina girando la chiave d'avviamento, ti arriva, che ne so, l'airbag in faccia, toccati liberi. E te lo sto dicendo in modo crudele, a modo che tu immediatamente vada ad un centro specializzato. Ciao, saluto. Lei ti faccio mettere a posto quella centralina, ma velocemente. Ciao, carissimi. Prima che succeda veramente una disgrazia. Guarda, te lo dico apprettamente, non sono un cielo da malaugurio, io sono una persona molto molto precisa nel mio lavoro e quando ti dico una cosa è così, non sono un meccanico, premetto, però sono un programmatore, quindi ti posso garantire che un errore del software costa caro, anche di macchinari industriali, anche io ho visto una numerica impazzita che ha fatto un foglio di lamiera a pezzettini, quindi non ci trascurate niente, va bene, detto questo ti saluto, che devo uscire adesso come detto per andare a passeggiare, ci riascoltiamo nel prossimo, buon proseguimento, grazie delle quattro chiacchiere, a te ancora. Grazie, no, la tua volta non fa una grinza, ma hai perfettamente ragione, dal punto di vista della logica, d'altronde il più grosso disastro dell'Ariane 5 è stato causato da un errore nella compilazione del programma, dove non avevano previsto la possibilità di uno zero alla fine di una routine che ha innescato l'autodistruzione del vettore, per cui figurati. È vero, un simbolo, un bit, un valore insignificante a causa di un errore generico comunque viene gestito dal sistema in qualche modo, e in qualche modo significa che possono essere attivate routine che poi si possono verificare dannose per il guidatore stesso. Ti ringrazio perché mi hai prospettato una cosa che non avevo sinceramente visto sotto questo punto di vista, pur programmando, ripeto, anche io non l'avevo vista sotto questo punto di vista, assolutamente. Ti ringrazio, buona passeggiata Gianni e buon tutto. Rilancio a Doppio Room e poi credo che ci sia anche Fabrizio e Grodde. Ciao Gianni, ciao, buona ciao, passeggiata, ci sentiamo. A pieni polmoni, respira. Avanti, Grodde. Grodde, come al solito. Sei drumito sicuramente, avanti Fabrizio. No, non sei drumito, tu ti addormenti già. Ecco, quello è sparito senza avvertire, come al solito. Vabbè, io me l'ho già fatta la pennichella, quindi sono arzillo di nuovo. Stiamo facendo a letto, sto facendo qualcosa al PC, vado l'altro, mi sto ascoltando e non mi sto andando, ma la cuffia, ciao Salvatore, ben sentito anche a te. Ciao carissimo Faber, no, Grodde sta mangiando in questo momento. aspetto che stavo andando a vedere nel frigo quanta roba c'era e faceva il calcolo di quanto spazio poteva occupare nella pancia per farcela stare. Il resto sta sgranocchiando di sicuro, di brutto. Allora Faber, che mi racconti? Niente, mi sta facendo qualcosa, sembra c'è qualcosa, adesso sto terminando di montare questo computer in stazione nella mia piccola 1 metro per 2 piccolissima stazione. Ho montato il computer, il desktop ho montato, quindi sto cercando di terminare di caricare, di configurare, di fare due cose. Tutto va bene domani, perché oggi Bartolini ha dato buca al radioamatore al quale sto prendendo la radio. Domani mi dovrebbero spedire un Mark V, praticamente nuovo di zecca. È fatto bene, anche io stavo cercando, poi leggendo, ma non ero convinto, non c'è 6 metri se non sbaglio. Sì, credo che non ci siano. Però non, a me non interessavano le altre frequenze, infatti ho avuto modo anche di parlarne con Massimiliano e di scambiare due chiacchiere negli ultimi giorni, che sono stati per me abbastanza concitati, ma comunque tutto sommato, per quello che a me piace, interessa, al momento i 6 metri li lascio perdere. Mi interessa riuscire a gestire al meglio sino ai 30, poi un giorno si vedrà. Per quello che la sto utilizzando in questi ultimi 10 giorni non la accedo neanche un attimo, perché ero in tutt'altre faccende affaccendato, e quindi no, sono contento, infatti sto mettendo in vendita i 4,40, così mi recupero qualche soldo. Ho capito, sì, fatto bene. Anche io stavo pensando, aspetta, abbasso, scusate. Ecco qua, no, che ero su, e ecco, poco fa ho sollevato un po' la testa, perché sto facendo c'è un sacco di propagazione intorno ai un po' più in alto, altrimenti è incredibile, però in 2 secondi ho collegato Venezia, il Brasile, tu tre macchine dietro l'altro, una posizione, una propagazione incredibile. Ma quanto gioca in Brasile? Come lo sentiamo? No, sempre su questa frequenza qua, un po' qualche canale più in alto, Peccato, ma se, usando quella verticale multibanda o una antenna? No, la 5 ottavi, più meglio di quella su queste frequenze, lo di più. Era giusto per avere un'indicazione in più. E cos'è che ti volevo dire? Bello, bei segnali. Perché c'era questo, arrivava questo da Venezia numero 10, c'era quest'altro, questo brasiliano arrivava 9.20, 9.25, è stata una cosa impressionante. Però l'altro giorno ho collegato anche Roma, che è una cosa un po' difficile da collegare. Ho collegato Roma, esattamente dietro lo stadio abitava questo. Non so, perché per noi l'Italia non è semplice collegarla. No, più che la Sicilia, che abbiamo favorevole, la Sicilia e la Calabria, poi per il resto un po' viene... Comunque stavo facendo collegamenti quest'anno che non avevo mai fatto, tipo città strane, città che non avevo mai collegato. Non lo so, Sì, vabbè, cioè, ogni tanto fa piacere, un po' che non giravo, sempre facendo qualcosa. Comunque come devo andare a letto, ascolta, una cosa Salvatore, che magari me lo dice sempre, no, devo spulciare per lo tempo. Testo per la tavola, non è importante che questo. Sto cercando la funzione per non farla andare in stand-by, che vada solamente il monitor ma non la macchina. Funzione risparmio energetico, risparmio energia. Start pannello di controllo. Sì, start pannello di controllo, sì. Però sul portatile, ma questo non è un portatile, capite? Vabbè, comunque sono sempre le opzioni sul risparmio energia. Quindi che cos'è comunque? Sistema operativo Windows? Sì, Windows 7, no, ma non ce l'ho risparmio di energia qua, è quello che stavo cercando, era abituato al mio portatile, ma qui non lo trovo. Praticamente è imboscato. Che versione hai di Windows 7? Professional. A professional. Comunque tu puoi anche lanciare l'help digitale risparmio energetico, lui ti dice esattamente qual è il percorso per arrivarci, perché adesso con Windows 7 mi sta non ce l'ho visivamente il percorso, capito? Comunque c'è quello, praticamente puoi andare a settare, come tu ben sai, i parametri di spegniti, non spegnerti mai, vai in sembra dopo 30 minuti, queste cose così. Le trovi comunque con l'help. In ricerca. L'help interno proprio di Windows. Risparmio energia. E poi lui ti dice qual è il percorso. Lo sto trovando, ci riprovo. Ecco qua, opzione risparmio di energia. Visto. Qui perché non l'ho bilanciato, no, non mi interessa bilanciato. No, devi andare in gestione manuale, Fabri. Sì, adesso glielo imposto. Aspetta che in ufficio lo stand by, è vero che mandavo in stand by, il problema è che in questi computer non era installato con un nuovo riprovere il pulsante per farlo ripartire, in realtà gli dava un reset. Che lavoro me lo fa, ma io li provo, non posso fare modifiche perché non sono il gestore di quell'apparecchio, quindi in più di tanto non ti fa fare. Avrei l'accesso come utente ovviamente. Però è una seccatura, ho notato su 6 computer nuovi su 6 questo problema, allora mi sono operato e gli ho cambiato a tutti quanti l'impostazione e l'ho messa a non spegnersi mai, va fantoma, buonanotte. Ma perché sento, a me quando io ce l'ho aperto col mio profilo ci sono alle volte come vedete modifica il combinato risponde cambia importanti pulsanti limitazioni, vabbè, aspetta, si opzioni, niente. Stavo dicendo, poi praticamente a me cosa mi fa? Alle volte, finché rimane acceso il giorno, non trovo pochi minuti che devo buttare dentro la password per aprirlo. Non riesco a capire perché. Perché cazzo alle volte rimane aperto, alle volte chiude, si chiude da solo, Perché hai del software che sta girando, devi aver lasciato qualche applicativo casomai in finestra. Che comunque fa delle operazioni, quindi comunque per il computer è attivo in quel momento, come se l'utente stesse comunque aspettando il risultato di un'operazione, metti il conto. E soprattutto con programmi che sono collegati in rete, a meno che non ti slacci il server al quale tu sei collegato, e allora non essendoci neanche più ping, battuta e non essendoci traffico, lo considera il sistema come un periodo di inattività dell'utente, quindi lancia lo stand by. Capito, forse perché mi posso tutto, una volta lascia a posto perché lascia a voi, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a perché non posso riparare, sennò qua disturbo, non voglio creare problemi ai vicini di casa soprattutto. Cavalla, dico questo perché è stata applicata una lettera, diciamo in bacchetta, dicendo di non creare disturbi di qua, di là, ma di non attaccare radio, stereo, insomma, che disturbiamo. Qualcuno deve andare anche alla serena in questo palazzo. È per quello che hai abbassato la voce. Allora. Ma va, cazzo, non parli alla radio perché disturbi, cos'è? Inchia. Manco ti si mette a urlare, già. Lo so, ma c'è gente che ha bisogno della casa serena qua. Ma non sempre meno, visto che chi va a casa serena e cambia la residenza, poi gli arriva una bella sbarla di IMU. Quel bello che gente anche giovane, è di quella che non sopporta nulla. E siamo sempre lì, perché non sono cose che fanno loro, se non altrimenti avrebbero trovato mille giustificazioni. Poi io mi affido anche alla passione del canto, quindi sto sempre provando. Cosa ti vuoi dire a questa ragazza? Cioè, le piace cantare, non può cantare, in casa sua. Io non dico di cantare a orari che non si può, però nelle ore della giornata può cantare tranquillamente. Ok, Baldo, tu pensa che nello secondo minio sono in 5 i bambini che sono al conservatorio e che quindi fanno le prove di strumenti, chiaramente ognuno a casa propria la sera. Concerto. E tu pensa che nel comune vicino c'è una ragazza che ha la tromba. E anche io avevo un'amica che suonava il piano e il ragazzo suonava lo stesso e lui invece ha la tromba, capito? E un'amica che suonava il clarinetto. Poi è chiaro che se lo fai alle 10 di sera è un discorso, ma è pomeriggio, non ci mancherebbe altro che qualcuno lascia dire roba. Allora, è stato impostato così, non bisogna fare chiasso nelle ore, durante il giorno non si può cantare, no, non bisogna cantare, non bisogna alzare il volume della radio, eccetera eccetera. Io se avessi avuto problemi sì, invece che avrei questa cazzata. Ma questo a chi l'ha detto, a te? No, hanno messo il foglio del condominio, noi abbiamo un condominio esterno, quindi è stato richiesto di applicare alla bacheca questo foglio, sicuramente il condominio l'ha preso. Sembra che tu basta continuare a farsi i cavoli che ti frega, ora ti frega te. Cioè, alla fine te lo frega. Io volevo scriverci, siccome l'hanno messo esternamente, ci volevo scrivere. A chi non va bene vado a casa serena. Bravo, così devi fare. Non dimmi che mi stava a perdere tempo con questo, ma... Se avessi avuto problemi sì, da questa cazzata non ci avrebbe pensato. Se avessi avuto problemi di lavoro, di coso, che c'è molta gente. Ma infatti, basta che rispetti quegli orari puri. Ma infatti, chi canta a mezzanotte? Nessuno canta a mezzanotte o... non sopportano nulla. Se quando giocavo con la bambina, che era piccolina, e giocavo sul letto, telefonavano per di smettere di fare casino. Guarda, mio figlio avrebbe avuto tutti e due maschietti quando si picchiano. Oh, yeah. È uno a 3 anni, l'altro a 2 anni. Ma quando si picchiano, quando si rincorrono, ogni tricchio e poi salta a me. Basta! Adesso basta, adesso viene poco a venire, basta! Minchia, cacco, sarebbero... non ci ha messo il nessuno, ma giustamente, però alle 9 non per me è tutto silenzio perché sono a letto, no? Ma non è che mi puoi impedire la sera alle 5 quando stanno giocando che non sbattere in cameretto e non tirare le costruzioni. Mi ricordo di una volta che verso le 5:30 di sera, in pieno inverno, con pioggia, lampino, tutto quanto, mia moglie dice, beh, cosa facciamo? Mi dice, dai, prendiamo il karaoke, ci mettiamo tutti a cantare e passiamo la serata. E dai, vabbè, preso il karaoke e tutti quanti a uno cantavamo. I bambini stavano divertendo, loro erano bambini, adesso sono già più grandicini. stavano divertendo, cantavano anche loro, tante di canzoni animate, eccetera, eccetera. A un certo punto sentiamo il campanello suonare, era quella di giù, che praticamente la figlia doveva studiare e che gli smetteva per cortesia di spegnere il karaoke. Io mi sono girato e ho detto, scusa, ma è un orario che tutti possono accedere a certe cose. Se poi tua figlia deve studiare, devi avere anche la cortesia di chiedere per cortesia, potete abbassare il volume, non spegnere. Cosa vuol dire spegnere? Comunque in ogni caso mia moglie mi toccava, perché mi stava alterando un bel, alterando però. E niente, in ogni caso ci ha rovinato la serata, ti dico la verità, non c'è più venuta a voler cantare. Quindi io avrei messo, non avrei cantato anche io, ma ci avrei messo il, come si chiama, ci avrei messo una bella canzone a tutto volume e gliel'avrei fatto vedere, ma avrei fatto un giro e non rompere le scarpe, ma dimmi tu, la gente è tutti uguali, per carità. Bah, allora io vi saluto, che non vado un po' sul divano, domani mi devo alzare presto. Buonanotte a tutti e anche agli ascoltoni. Ciao, ciao Fabio, ci sentiamo, la buona giornata per domani. Avanti, ciao. Ciao Fabar, a risentirci alle prossime, quando sarà. Buon tutto. Gianni Garo. Gianni Garo. È un po' gogira, un po' rotto di scatole per queste vicende qua, perché che uno in casa sua debba essere, debba sottostare a, al volere degli altri, questo è un po' troppo. In casa mia, mio padre diceva, in casa mia comando io, in casa vostra comandate voi. Naturalmente sempre bisogna rispettare il prossimo, perché bisogna sapere che il mondo di donne è solo tuo, c'è tanta gente che ti circonda che va rispettata, questo diceva mio padre. Assolutamente sì, assolutamente sì, è così, è così. Però io la razza e i problemi che si mettono, cioè, veramente è evidente che questi non hanno altri, non hanno problemi più grossi da affrontare, se questo è il top della, della giornata per loro, di problematica da risolvere, cioè, l'audio, l'audio di uno che parla nel piano di sotto o nel, nel piano di sotto, può caricare. Sì, ci sono quelli che si mettono anche il bicchiere per ascoltare quello che dicono, quindi... per carità. Io ti saluto. Vengo anch'io. Sono stati 10 giorni di fuoco, per cui domani riprendo a lavorare. Sono stanco. Diciamo che ti auguro che vada bene tutto, anche se non so cosa sia successo, però quello che ti posso dire è che ti auguro di star meglio. Sì, no, capo, io tanto quanto, no, la scorsa settimana, lunedì notte della scorsa settimana, che mamma, avventurandosi di notte per andare in bagno, è caduta e si è fratturata una vertebra. E quindi stiamo dalla scorsa settimana, ha passato il martedì praticamente al pronto soccorso di Nuoro, abbiamo fatto TAC, radiografie e quant'altro, e alle 8 di sera ci stavano dicendo che eventualmente bisognava operarla d'urgenza, che dovevamo prendere una decisione, eccetera eccetera. Però siccome un annetto e mezzo fa ho avuto un'altra operazione importante di sostentamento della colonna vertebrale fatta da, da un professore di Cagliari, e vista la malparata abbiamo firmato e l'abbiamo portata via, perché abbiamo detto cavolo qua le mani non gliele facciamo mettere sopra a mamma senza aver sentito questo qua. E quindi l'abbiamo portata via al pronto soccorso, immobilizzata con un busto. In ambulanza abbiamo portata a casa mia sorella, dove è tuttora. E nel frattempo siamo riusciti ad accorciare il più possibile i tempi per visionare per bene, con calma, lastre, tacche e quant'altro che ho portato io oggi giù a Cagliari. Quindi da questa settimana scorsa ero a Nuoro e stavo assistendo a mamma. E oggi ero a Nuoro, ho preso poi tutti quanti i documenti, sono sceso giù a Cagliari, ho parlato col professore, abbiamo visti assieme e niente, ha detto di che le opzioni erano operazione se voleva rimettersi in piedi subito, però che sarebbe coincisa con quella che è un allungamento dell'impianto esistente, oppure mettere il busto per consolidare le vertebre in maniera naturale, che però chiaramente richiede 75 giorni di immobilismo, chiaramente. Però questa è la strada che alla fine ha optato anche lei, ne abbiamo parlato con le mie sorelle e quindi presa questa decisione. Lei è tranquilla, abbiamo già organizzato per farle l'assistenza e niente, quindi stasera sul tardi sono riuscito a ritornare qui a Sassi. Comunque diciamo che dovrebbe essere la soluzione migliore, quindi non dovrebbero esserci problemi, speriamo bene. Paga. Quanti anni ha tua madre? Scusa se te lo chiedo. È del 40, quindi ne ha 72. Sai qual è l'unica cosa che potrebbe dare problemi? Il fatto di stare ferma e che si formino piaghe. Dovete cercare sempre di girarla e di mettere un letto anti decubito. Girarla no, già, deve rimanere ferma, supina. E quello li può formare piaghe, capito? E quello lo so, per la frattura, però non ha un busto, scusa. Il busto però deve rimanere immobile, proprio per permettere il ricostituirsi di quello che è il naturalmente viene prodotto dalle ossa e che andrà a calcificare le lesioni che ci sono state e ad accorpare anche queste schegge che si sono prodotte nella caduta, che hanno, come le vertebre hanno toccato, si sono scheggiate da una parte e dall'altra. Spero che c'è qualcuno che chiama da fuori di San Matteo. Non sento nessuno. E quindi questo è quanto. Anche perché comunque lei aveva avuto un'operazione particolare dove è stata messa un'impalcatura nella colonna vertebrale, capito? Per sostentare la base della colonna vertebrale. Ho capito. E vabbè, io mi auguro di guarire al più presto, dai. Caspita. Sono cose un po' rognose, stare fermi nella stessa posizione, poi la cosa più drastica. Per me sarebbe drastica. Io quello che ho detto a mia moglie quando l'ho sequestrato questo imprenditore di Bonova, che l'hanno messo in una posizione, e ho detto io sarei morto, non avrei resistito in una posizione di non potermi muovere, perché sono abituato anche al letto. Mia moglie dice che sono un cavallo, come mi muovo? Lo so, c'è un rilassamento poi del tono muscolare, assolutamente sì. Però cioè, i rischi di un'operazione ci sono sempre, anche lui me l'ha detto. Cioè, operare è sempre c'è sempre un rischio. Quindi laddove è possibile, con una grande pazienza e quindi con la maggior parte del lavoro lo deve fare la persona, però risolvere il problema in maniera naturale è meglio, è auspicabile questo. Altrimenti la strada dell'operazione c'è, è praticabile senza dubbio, però ha i suoi contro. Quello nel giro di un paio di giorni sei nuovamente in piedi, però hai un aumento ulteriore della rigidità della colonna vertebrale a causa di questo consolidamento che viene fatto, al quale si aggiunge la staticità dovuta a questa sorta di protesi messa, questa imbragatura che aveva già prima, quindi insomma anche i movimenti iniziano a non essere più naturali, i piegamenti non ne puoi più fare, torsioni non ne puoi più fare, insomma è una cosa diversa, è un contro che è da valutare, perché è meglio rimanere belli stesi e ridare al corpo la possibilità di risaldarsi da solo, piuttosto che voler affrettare a tutti i corsi i tempi di recupero, ma a discapito poi della mobilità successiva, cioè di questo poi in sostanza abbiamo parlato, è stato preso in considerazione in questa maniera appunto da mamma e quindi adesso rimarrà così e si consoliderà da solo, e poi tra 30 giorni giù di lì si potrà iniziare a muovere nuovamente per altri 2 mesi sempre con il busto, e poi togliere il busto definitivamente. Chiaro che una rogna, però questa è la minestra. Purtroppo cosa si vuole fare? Se è successo. Purtroppo queste cose qua, quando uno è anziano perde anche l'equilibrio, magari non ha più l'equilibrio di... Io mi ricordo mio padre, aveva 96 anni, era più anziano, che c'era un periodo che perdeva l'equilibrio, cadeva da solo, una volta l'abbiamo trovato in mano e ha sbattuto la faccia al bidito, ci ha spaccato il sopracciglio, eccetera. Purtroppo, quando dice ma la sorte, dice sto perdendo l'equilibrio, perché mio padre è stato arzillo sino a 96 anni, compiuti un po' più in là, diciamo a metà dei 96 anni ha cominciato un po' l'equilibrio a fregarlo, ogni tanto sbandava. Vabbè. Si fa di necessità virtù, no? Già, pazienza. Beh, mia moglie mi ha messo anche la roba da stende, adesso però va, io mi volevo andare a letto. Poi vabbè, oggi mi sono lavato i piatti io, dai. Non c'è problema, quando si può una mano lava l'altra, tutte e due lavano la faccia. Buonanotte, Salvatore, ti lascio andare, va. Auguri di nuovo per tua madre, mi dispiace, ma purtroppo a una certa età so cosa gli succede, sono i nostri calcoli. Assolutamente. E come dici tu? Speriamo di risentirci i prossimi giorni, chissà che lo faccio anche con la radio nuova. Vabbè, speriamo bene, dai. Grazie di tutto già, un abbraccio, salutoni, buonanotte e buon tutto per domani. ciao, ciao, salvato, contraccambiato tutto al centro, buonanotte.